belli collici che la bellezza infiora, e là fuggeva, fuggeva l'ora, s'inebria voluta, li bianni dolci fremiti che suscita l'amore, poiché quell'occhio al cuore onnipotente va. Liviamo amore, amor fra i collici più caldi baci avrà. Quando non sa mi ancora.